ci di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Viene, viene la Befana, vien dai monti a notte fonda, come stanca, la circonda neve, gelo e tramontana. Viene, viene la Befana, ha le mani al petto in croce, e la neve al suo mantello, ed il gelo il suo pannello, ed è il vento la sua voce, ha le mani al petto in croce, e si accosta piano piano alla villa, al casolare, a guardare, ad ascoltare, or più presso, or più lontano, piano piano, piano piano. E che c'è nel casolare? Un sospiro lungo e fioco, qualche lucciola di fuoco brilla ancor nel focolare. Ma che c'è nel casolare? Guarda e guarda, tre strapunti con tre bimbi a nanna buoni. Tra la cenere e i carboni c'è tre zoccoli consunti, oh, tre scarpe e tre strapunti. E la mamma veglia e fila, sospirando e singhiozzando, e rimira quando a quando, oh, quei tre zoccoli in fila. Veglia e piange, piange e fila. La Befana vede e sente, fugge al monte, che è l'aurora, quella mamma piange ancora, su quei bimbi senza niente. La Befana vede e sente, la Befana sta sul monte, ciò che vede è ciò che vide, c'è chi piange e c'è chi ride, essa nuvoli di fronte, mentre sta sul bianco monte. E buonasera a tutti, e con questa poesia di Pascoli che Anna Maria con la sua bella voce ci ha letto. Buonasera, buonasera. Iniziamo la trasmissione di oggi, appunto Sera della Befana, mentre siamo in compagnia quindi di Rosanna, di Anna Maria e di Fiorella. Buonasera Fiorella, buon anno. Grazie e buona Epifana e buona Pasquetta. Allora, Epifania, Befana, insomma oggi è una giornata così dove ci sono molte ricorrenze, e appunto la nostra trasmissione dei colori dell'anima capita proprio di oggi, 6 gennaio, mentre sono le 21:06, e quindi appunto abbiamo cominciato con questa poesia di Pascoli, Viene viene la Befana, che è una poesia, in realtà Anna Maria non ha letto tutte le strofe, altrimenti sarebbe stata un po' lunga. Per evitare di farvi addormentare. Ed è appunto una poesia della Befana che va in tutte le case e per ultimo va anche in un casolare dove ci sono tre bambini poveri con la mamma disperata perché appunto non sa forse come dar da mangiare a questi bambini. Allora, come avete trascorso queste vacanze, Anna Maria? Bene, bene, diciamo come da copione, vacanze in famiglia, grandi mangiate, regali, insomma, solite cose, del resto si aspetta il Natale tutto l'anno, non ci sono mai novità, ma siamo sempre così contenti che non ci siano novità. Certo, certo. E tu, Fiorella? Ah, come tutti, in famiglia, mangiando, ma anche cucinando. Oh, va bene. Perché non essendo andata a Roma, avendo trascorso le vacanze qui, ed essendo io la portatrice di nutrimento e di tradizioni, soprattutto italiane, dunque ho trasportato tutte le tradizioni che mi porto dalla mia città, soprattutto di Roma, e con uno stampo molto meridionale fra Abruzzo e Ciociaria, dunque c'è un intreccio di dolci a non finire, e li ho portati in casa, e non so, la mia bilancia non mi ha detto niente questa mattina, ma domani mattina penso che dirà qualche cosa. Ma la Befana, guardare. Ma ti dice che la Befana tutte le feste porta via, e speriamo che porterà via anche chili di troppo. Sì, sì. Allora, come dicevamo, appunto capitiamo proprio di oggi, giorno dell'Epifania, ed è effettivamente una festa molto importante, non qui in Belgio, nel senso che l'Epifania non viene festeggiata proprio il 6 di gennaio, ma la festa è rimandata solitamente alla domenica, però insomma tutti i nostri amici e parenti italiani oggi hanno festeggiato, mio nipote non è andato a scuola neanche oggi, come tutti i ragazzi, giustamente. Beh, e quindi in Italia è un giorno festivo. È un giorno festivo, infatti. E invece noi poveretti abbiamo lavorato, giusto? Esattamente, abbiamo abbiamo lavorato, stasera siamo qui a farvi compagnia, e, però ci ricordiamo questa bella ricorrenza perché in ogni parte d'Italia ci sono tradizioni un pochino diverse, anche se il tema più o meno rimane lo stesso, le tradizioni possono variare un pochettino. Certo. Allora, l'Epifania, per te, Fiorella, l'Epifania che significa? No, per te, insomma, cosa significa in generale, ma magari l'Epifania nei tuoi ricordi personali anche. Allora, facciamo un attimino un po' di storia, che cosa è l'Epifania, così ci mettiamo un pochettino nella cultura di tanto, tanto tempo fa. Dunque, Epifania, da Epifanio, dal greco, manifestarsi. La manifestazione di se stesso, dunque la prima volta che Gesù si manifesta, si rende manifesto. E a chi si manifesta? Ai re magi. Dunque qui iniziamo un pochettino un po' come la storia, un po' come la favola, ma è una bellissima favola che a noi ogni volta ci appassiona. Dunque questi tre re magi che vengono indicati una volta come astronomi oppure come re. Diciamo che possono essere tutti e due, re che erano appassionati di astronomia, guardano questa stella cometa, che anticamente si pensava che fosse la stella di Halley, ma poi fu scoperto che non era la stella di Halley perché era passata già il 16 avanti Cristo, ma era una congiunzione, questo rende ancora più, come dire, più fantastico, no? Una congiunzione di pianeti, dunque Giove con Luna, Marte con Saturno e tutto nella costellazione dei Pesci. E Betlemme era il punto migliore da cui si poteva vedere questo fenomeno da coloro che venivano dall'Oriente. Dunque, i tre magi, Melchiorre, Baldassarre e Gasparre, vengono dall'Oriente, re dei persiani, degli indiani e di arabi. Cosa portano? Perché loro avevano visto in sogno questa cometa che diceva di andare a vedere il Salvatore del mondo. Dunque, devono portare dei regali. Cosa portano? Naturalmente pensano di incontrare il re del mondo, dunque devono portare dei regali che sono appropriati all'occasione. Dunque portano oro, che significa la regalità, perché si regala un re, l'incenso, perché ricorda la divinità. Ecco l'incenso che viene poi usato in tutte le nostre, in tutte le funzioni religiose. E la mirra. La mirra era usata all'epoca nell'imbalsamazione, dunque questo è un annuncio della risurrezione di Gesù Cristo, di Gesù. Dunque, allora a questo punto nella storia dei re magi ci si mette la storia della nostra Befana, perché le storie si intrecciano, no? Si rincorrono. Di leggende. E di leggenda. Dunque questi re magi partono e vanno verso Betlemme. Per strada incontro una vecchietta, la vecchietta dirà, ma domandate, noi andiamo a trovare il re del mondo, il Salvatore. Vuoi venire con noi? La vecchietta si vede qua. Alzata male, tu? No, non voglio venire. Dunque loro se ne vanno, la vecchietta ci ripensa e viene presa dal panico, dice no, ci vado anch'io perché voglio vedere. Però loro si erano allontanati, dunque lei non cammina e non trovi re magi. Allora dice, io non so chi sia questo re del mondo, Salvatore, allora che faccio? So che è un bambino, allora porto i regali a tutti i bambini per non sbagliare. Ecco la tradizione della Befana, almeno quella che conosciamo noi, la Befana che porta i regali a tutti i bambini. Dunque, queste sono le due tradizioni, quella religiosa e quella fantastica, che si fondono. Che ha trovato il sistema di fonderle, sì, via. Ecco, appunto. Diciamo che poi la faccenda della calza, anche che noi mettiamo questa calza, si ricorda anche Numa Pompilio, che era un re, lui metteva questa calza. Perché la calza? Lui andava in una grotta dove lui pensava che ci fosse una ninfa, lui lasciava questa calza perché sapeva che il giorno dopo avrebbe trovato questa calza piena di consigli, suggerimenti e di idee date da questa ninfa. Chissà se queste tradizioni, calza, befana, rimmagico, contenitore che sia. L'importante è che poi troviamo qualche cosa sotto la nostra calza. Sì, e io volevo anche aggiungere che molte nostre festività hanno un'origine rurale, affondano cioè le radici nel passato agricolo, e così anche per la Befana, che nulla ha più a che vedere con l'antica personificazione di madre natura, mentre tanto si avvicina alla figura di Babbo Natale. Di origini pagane, infatti, nel recente passato il personaggio della Befana è stato identificato nella figura di una strega benevola che, secondo molti, dimora sui monti in mezzo al bosco, vicino alle carbonaie. e detta, ecco anche, detta anche la moglie dell'orco, e porta ai bambini cattivi carbone o legno e a quelli buoni doni alimentari quali agrumi, di qui i mandarini, i famosi mandarini, la frutta secca, i biscottini di pan pepato. La ritualità quindi della celebrazione dell'Epifania, anche sul piano alimentare e gastronomico, rivela così la sua derivazione da culti agrari, con pietanze a base di legumi e maiale. Ma ovviamente, e poi lo vedremo nel corso... Ma io le salsicce nella calza della Befana non le ho mai trovate però. No, magari forse potevano mettere chissà un salamino forse, certo un le salsicce. Un cacciatorino. Infatti. No, ma questo che dice effettivamente come le tradizioni, tutto viene mescolato, cioè tutto ha un origine, tutto ha un perché. No? Sì. Noi sappiamo anche che nelle regioni del nord vengono bruciati, vengono fatti dei falò. Sì. Esatto. Il falò nella tradizione religiosa forse si vede quando i Re Magi ripartirono, la sera stessa a Giuseppe venne apparse anche l'angelo che gli disse: guarda, scappa scappa perché Erode ti sta cercando. Dunque si narra che i falò non erano stati altro che fatti dai pastori per permettere di vedere la strada e permettere alla Sacra Famiglia di partire, dunque fare la strada all'asinello. Chissà, allora se questi, come dicevamo prima, le tradizioni si mescolano, tutto ha un'origine, può essere un'origine religiosa, a noi ci fa piacere questo, ad altri un po' più pagana, però il risultato è sempre lo stesso, una bellissima vecchietta, bella, con l'età che si trova, e che ci porta? Bella, proprio bella, no. Ma diciamo simpatica e molto, molto gentile perché porta regali. Non l'abbiamo mai vista, però. Diciamo che abbiamo delle immagini, via. Sì, però chi ce lo dice che è brutta? Magari una bella vecchietta. Comunque io ieri sera... L'hai vista? No, siccome sono tornata a notte fonda dall'Italia, mi sentivo proprio la Befana. Sull'aereo, chi vi dice che la Befana vada ancora sulla scopa del resto? Ha un jet privato ormai, secondo me. Eh sì, per forza. Assolutamente. Ah, chissà, forse un regalo che gli ha fatto Gianni Rodari, sai? Dici? Sì, ah, sì, va perché bene. Lo dice là dentro, sì. Dopo leggeremo anche la poesia di Gianni Rodari. Forse allora, c'è ragione. Io propongo una breve interruzione musicale, ci ritroviamo fra poco, sempre a Radio Alma, con i colori dell'anima. Vi diremo anche il colore che abbiamo scelto per questa trasmissione dedicata all'Epifania e alla Befana, e ancora buon anno a chi si è sintonizzato con noi solo adesso e a fra pochi minuti dopo il brano musicale. Ed eccoci qua di nuovo a chiacchierare con i radioascoltatori dei colori dell'anima. Oggi 6 gennaio 2014, facciamo tanti auguri di buon anno naturalmente, ma proprio perché questa trasmissione cade di oggi, abbiamo pensato così di fare una chiacchierata attorno alle feste di oggi, e quindi l'Epifania, questa manifestazione, e ovviamente legata poi all'Epifania anche la Befana. Tu, Fiorella, avevi un'altra poesia, oltre a quella di Pascoli di prima? Sì. Un'altra di Gianni Rodari? Sì, come tutte le sue sono più filastrocche. Buona Befana, voglio fare un regalo alla Befana. La Befana, cara vecchietta, va all'antica senza fretta. Non prende mica l'aeroplano per volare dal monte al piano. Si fida soltanto la cara vecchietta della sua scopa di saggina. È così che poi succede che la Befana non si vede. Ha fatto tardi fra i nuvoloni e molti restano senza doni. Io quasi, nel mio buon cuore, vorrei regalarle un micromotore perché arrivi dappertutto, col tempo bello e col tempo brutto. Un po' di progresso e di velocità per dare a tutti la felicità. Ecco, una bella Befana moderna. Quella dell'aereo di ieri? L'aereo sì, quello, infatti, vedi, io ho interpretato il desiderio di Gianni Rodari e ho preso l'aereo. Allora, dunque, la Befana effettivamente, oltre quindi ad essere un giorno di vacanza, viene festeggiata anche in vari modi, ma basta guardare un po' le nostre regioni italiane. Sì, in ogni posto viene festeggiata in maniera diversa, che sia Befana, che sia Neri Magi, le tradizioni sono diverse. Per esempio, in Emilia Romagna si dice che nella notte dell'Epifania le mura diventano ricotta. Non so perché, però diventano ricotta. Poi, a Palermo invece si narra che i Re Magi attraversarono l'isola e fecero fiorire per incanto gli aranceti bruciati da una nevicata. In Calabria, invece, le ragazze, la notte della vigilia, prima di addormentarsi, recitano una canzoncina augurale. Se sogneranno una chiesa in festa, un giardino fiorito, sarà per loro un anno fortunato. In Toscana sembra che i contadini infilano la testa sotto la cappa del camino cercando di vedere le stelle. Solo se ci riescono possono stappare il vino nuovo, l'annata sarà buona, ma secondo me lo stappano lo stesso. Poi c'è un'altra tradizione a Faenza, che il 5 gennaio la chiamano la Notte des Bisons. Non so se lo pronuncio correttamente. È un'occasione per gustare specialità gastronomiche e vin brûlé a profusione, anche qui vino, preparato da ogni rione che partecipa alla celeberrimo palio del Niballo. Il termine dialettale bisò è proprio un invito a bere, bevi su. Allora, io mi sono un po' ricercata che cos'è questo Niballo, perché non essendo di Faenza, certo. È un palio, praticamente, che però si... avviene il 4 giugno, quindi questo non ha grande cosa a che fare con la Befana. In cui durante questo palio ci sono i cinque rioni che si scontrano, e poi ci sono i classici cortei storici in costume e via discorrendo. Poi cosa c'è ancora? Dunque, a Ferrara ci sono i questuanti accompagnati da diversi personaggi mascherati, quindi c'è la vecchietta grinzosa, un vecchione, altri due o tre straccioni, di cui uno tutto tinto di nero e simboleggia uno dei Re Magi. Tutti insieme intonano dei canti popolari per invitare i cittadini ad essere generosi. Poi abbiamo in Friuli Venezia Giulia, per esempio, il giorno dell'Epifania si salutano le feste appena passate con l'accensione del tradizionale Pignarul. Lo leggo così com'è. Sì, sì, sì. Che si tratta di un covone di rovi con in cima un pupazzo che rappresenta la Befana. Secondo la tradizione, interpretando il fuoco ed osservando la direzione del fumo, è possibile fare previsioni su come sarà l'anno nuovo. Poi invece vi vorrei raccontare un pochino di Urbania, che è un paesino delle Marche, in provincia di Pesaro, dove della tua regione, diciamolo. Allora, devo essere sincera, io non ci sono mai stata, mi hanno sempre parlato, ma non ci sono mai stata. Effettivamente è una cosa che forse dovrei fare magari il prossimo anno. Urbania, dove creano la casetta della Befana, e c'è tutta quasi una settimana di festeggiamenti, addirittura hanno fatto appunto questa casa della Befana, fanno degli stand, ci sono gli artigiani che mostrano come si fanno le ceramiche, e si possono mandare addirittura dei messaggi via internet alla Befana per far portare i regali ai bambini a casa. Ah, ecco. Qui altro che motorizzata. E poi sembra che sia molto carina, perché c'è la Befana che dalla torre del municipio si cala lungo una corda, suppongo. Sì. Quindi tutti aspettano il volo della Befana con la scopa, e questa è una cosa molto carina. Quindi tutta una settimana dedicata solo alla Befana. A Roma invece, Fiorella, Piazza Navona. Chi non conosce Piazza Navona? Chi non è stato a Piazza Navona? Non lo so, non posso immaginare la sua vita in tutti i casi, non conoscendo Piazza Navona. Però, allora, prima di parlare vorrei solamente iniziare come noi iniziamo a Roma. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viva viva la Befana. Questo è la strofa che noi e qui Roma... abbiamo una serie infinita di variazioni. Di variazioni che però abbiamo scoperto come... perché mi pare, Anna Maria, come dite voi? La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, la sottana alla romana, viva viva la Befana. Che poi la sottana alla romana non è altro che la sottana con le toppe. Esattamente. Dunque, tutto... cioè, esattamente, l'ho scoperto stasera. Ecco, dunque, tutto va a fagiolo e rientra. Ti ho fatto la spiegazione di cos'è la sottana alla romana della Befana. Precisa scientifica, non fa una piega. Allora, per noi effettivamente, almeno per quello che riguarda i miei ricordi, la Befana a Roma è molto sentita. È l'ultima festa, ma c'è proprio tutta una preparazione. Noi, almeno quando eravamo bambini, aspettavamo la Befana, si addobbavano proprio le strade in maniera differente, tutti i negozi. Io ricordo un negozio sotto casa, era un casalinghi che vendeva cioè una volta questi negozi vendevano di tutto, io vi parlo proprio del post-guerra. cioè io ho più o meno l'età della Befana, dunque posso parlare a ragione. Dunque, io mi ricordo gli strati di giocattoli, perché tutto era fatto a livello. Davanti, cioè dietro c'erano le vetrine, davanti c'erano sul primo livello biciclette, tricicli, biciclette non tanto, tricicli e macchinine a pedali. Poi dietro, secondo livello, c'erano queste casette delle bambole, ma non erano queste, erano più che altro le casse, quelle per giocare alla cassiera, alla venditrice. Questo è stato un mio sogno, ma non l'ho mai comprato, chiederò alla Befana la prossima volta. Poi c'erano sempre le cose per i maschietti, che posso, palloni, queste cose qui. Poi dietro c'erano queste bambole, non le Barbie, quelle grandi, quelle bambole, vi ricordate? Quelle le che poi venivano messe sopra il letto, enormi. Dunque, quelle per me, porcellana? Quelle di porcellana, sì. Il viso di porcellana. Sì, nella scatola, dunque, sì, già sì, la scatola sì, prendeva queste cose qua. A me di questi regali, te l'ho detto, piacevano qualcuno, però l'impressione che avevo io era proprio di abbondanza, della festa per i bambini. Poi si andava a Piazza Navona. E poi che sono diventata mamma ho capito perché c'era tutta una tradizione, come dire, un modus di fare la calza, perché non è così semplice la calza, almeno a Roma. Allora ho capito che adesso si mettono quelle di lana perché si allargano, c'entra più roba. Io per esempio ho ancora la mia calza, mi porto appesa al camino quella che avevo da piccola, una calza bianca di pizzo, simile pizzo con i bordi d'oro, molto kitsch, ma a me piace tanto. Sì, io metto quella perché io penso che se la faccio un po' come Troisi, se non riconosce la mia calza forse la Befana non mi mette niente. Dunque, ognuno ha la sua calza, sì. Non facciamo confusione. Tra l'altro andate a vedere uno sketch bellissimo di Troisi sulla Befana, è qualcosa di stupendo, rimette veramente, si rimette in pace con il mondo. Dunque si compravano il carbone nero, poi ci fu anche quello bianco che non c'era colorante, però diciamo, ma parliamo del carbone che si mangia, quello che si mangia, quello che vi ho portato anche oggi. Io ricordo di aver ricevuto il carbone vero. Siete molto cattiva allora a questo. Ma mi sa tanto di sì. Ci abbiamo fatto le braciole comunque. Ah, buone. Dunque serviva, dunque si compravano i lacci di liquirizia, quelli lunghi perché sono più buoni, costavano di più e dunque soltanto la Befana le poteva. Diciamo che poi veniva riempita con i pescetti di liquirizia. Poi si portavano, si mettevano i soldi di cioccolata. Poi la cosa che a me piaceva di più erano le scatole con diciamo, le confezioni di sigarette al cioccolato o di sigarette col chewing gum, con la chewing gum, come si diceva, giusto? Poi tutte sorti di caramelle si faceva. Se andavano due giorni in giro, c'erano delle alimentari, delle pasticcerie che avevano solamente la parte Befana, preparazione calze. Poi c'erano i giochini, erano delle mini carte piccolissime che io a forza di averle in tutte le Befane ho fatto la collezione. Poi c'erano, abbiamo detto prima, gli Shanghai, ti ricordi? Sì, quel giochino sì, degli sì, Shanghai. Sì. Per chi non lo sapesse, sono come pezzetti di legno che bisogna tirare su senza far cadere l'altro, tutto quanto. Diciamo, sembrano spaghetti crudi. Shanghai. E poi stuzzicadenti. Esatto. Sì. E poi c'erano come si chiamano, quel giochino che vi erano era un quadratino, bisognava spostare i numeri e c'era una casella mancante. Dunque questa era un pochettino la calza tipo, ecco, e io ho sempre ricevuto calze di questa cosa. Poi molti libri, questo sì. E però per me, diciamo, l'ultima Befana che io ricordo, e quella è stata probabilmente un regalo della Befana, che ha fatto la Befana a tutti noi romani, il 6 gennaio dell'85 ci fu la più grande nevicata a Roma, l'ultima. Io mi ricordo che per me le vacanze di Natale sono sempre state improntate ad avere tantissima gente dentro casa. Cioè io entravo dentro casa, c'era mamma, papà e tantissime altre persone anche a giocare a carte. Sì, è vero, questa tradizione l'avevamo anche noi. Anche voi, sì. Sì, sì, si giocava a carte con le monetine che si accumulavano durante l'anno. Bravo, cioè, mia mamma c'ha ancora un borsellino che apre solamente a Natale. Cioè, sì, come sì, inizia sì. L'8 dicembre, pum, si inizia a giocare, quella la stessa cosa. Vero, è vero. Sì, staranno giocando a questo punto, fino a domani mattina, fino alle 4 o 5. Mi ricordo che non ci sparecchiava neppure. Cioè si preparava in cucina, hai fame? Vai. Poi se invece c'era questa morsa dell'appetito di tutti quanti, allora si sparecchiava in 5 minuti, Si toglievano tutto, si ricordavano i punti, a che punto si stava e tutto quanto, e si giocava. E mi ricordo di questo 6 gennaio, ero andata a giocare a casa di altre persone, di altri amici. e uscimmo, era, sai quando ti senti bene, tu dici c'è qualcosa di molto bello, no? Era 6 gennaio, dico torno a casa, dico chissà che cosa mi dicono perché non le 3 del mattino, ah, però siamo usciti con tutti gli amici e c'era la più bella nevicata di Roma, eravamo i primi, gli unici a circolare, tu immaginiti Roma con un cielo bellissimo e questa neve che scende, sono tornata a casa, dico ma i miei non se ne sono accorti, erano in stanza con le mie zie e parenti che stavano a giocare a carte. Addirittura loro non se ne erano, non si erano accorti di niente, talmente presi dal gioco, sì, e non avevano neanche voglia di smettere, anche perché la neve non fa rumore, come sappiamo, appunto. Però per me è stata, quello è stato un regalo della Befana, è stato uno, per chi ha vissuto con i miei amici che siamo usciti, poca gente che c'era a quell'ora del mattino, è stata una cosa bellissima vedere Roma in quella, su quell'atmosfera, sotto la neve, sotto le luci ancora degli alberi di Natale, è stato un il regalo della Befana, sì, sì. Allora, la Befana viene celebrata comunque soprattutto nelle città, a Piazza Navona, diciamo, è quella più famosa probabilmente, sì, in Italia. Nel nord-est la chiamano la vecchia, quindi si brucia la vecchia, giusto? Sì. A Venezia so che si fa così almeno. Sì, ma forse non è quella un po' quella tradizione celtica, cioè è un po', prima si diceva che non era la madre natura, però questa rientra molto nella madre natura, cioè la madre natura che durante tutto l'anno ha dato, poi si rinsecchisce ed è pronta per, certo, essere bruciata, certo, un po' come l'araba fenice, no? Che rinasce per dare, come dire, per dare luogo, la nascita a una nuova madre natura, dunque questo fatto di bruciare anche un po' il fuoco è propiziatorio pure, no? Ricorre spesso, sì, insomma, il falò, il fuoco. Sempre gli stesso dell'asinello? Sempre gli stessi falò che diciamo prima, dei pastori? Sì, sì, esattamente. Non si sa. Comunque, a parte Roma, poi diciamo che tutte le città, le piazze più importanti delle città italiane sono comunque prese da festeggiamenti, per esempio, sì, appunto a Roma, come sappiamo, è Piazza Navona, ma a Milano Piazza Duomo, quindi anche lì la piazza simbolica, dove di solito c'è la ricorrenza con le tradizionali bancarelle nelle piazze, e poi c'è anche il corteo dei Re Magi, dove i Re Magi e le Majorette sfilano in maschera accompagnati dalla banda musicale fino alla Basilica di Sant'Eustorgio. A Napoli invece si celebra in Piazza Plebiscito, sempre di solito nella mattina del 6 gennaio, con giochi e spettacoli dal vivo per i più piccoli, dopodiché appunto segue la discesa della Befana da Palazzo Reale, che arriva quindi per distribuire i dolciumi e le caramelle, e appunto a Venezia, oltre quindi ad esserci questa vecchia che brucia, però c'è l'Epifania sul Canal Grande con la regata della Befana addirittura, quindi insomma è una giornata dove in ogni parte d'Italia fanno delle belle manifestazioni molto folcloristiche e probabilmente adattate anche poi alle varie città. E al clima. E al clima, certo. Allora, il colore di questa trasmissione di oggi dedicata all'Epifania e alla Befana, abbiamo pensato che potrebbe essere il marrone e il nero. Così la Befana ci fa pensare al marrone, no? Marrone, ce la immaginiamo anche vestita di marrone. Nel senso, sì, estremamente positivo, il marrone che è questo colore caldo, il colore che è questa terra anche la forse terra, che la legna che per si prepara fuoco. E va su tutto. E va su tutto, fa sci che non impegna. Ma comunque sì, io la Befana me l'immagino vestita di marrone in ogni caso. Okay. E il nero, oltre al carbone che porta la Befana, cosa? Il nero della notte, perché questa Befana, sì, comunque va in giro di notte. O il nero anche del cielo che viene dove c'è questa stella che accompagna, sì, i Re Magi, insomma. Ma il nero poi è bello, non ha, cioè, sul nero poi uno può dipingere qualsiasi cosa, non ha, ci puoi mettere le stelle, la luna, come ti dicevo prima c'è un santuario shintoista in Giappone che è tutto abbinato sul nero e sul marrone, dunque sono due colori che si fondono insieme, nero e marrone danno l'uno forza all'altro, non si sovrappongono, stanno bene insieme, ma ognuno dà la forza all'altro. Dunque. E io penso che in questo inizio di anno ci dobbiamo dare cioè, certo, ci dobbiamo mettere insieme perché, certo, siamo un pochettino stanche dall'altro anno, certo. Poi abbiamo piangiato tutta la notte, soprattutto abbiamo le scope scariche. E quindi insomma nero e marrone come colori di questa trasmissione di oggi. Allora io propongo ancora una piccola interruzione con un brano musicale, ci ritroviamo fra poco, mi raccomando rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9 e ricordo anche a chi ci ascolta attraverso la radio che lo può fare anche attraverso internet andando al sito della radio, appunto Radio Alma, e lì troverà una piccola icona dove c'è scritto direct, quindi basta cliccare su questa icona per ascoltare la radio online. E naturalmente ci potete anche scrivere a I Colori dell'Anima @radioalma.eu e se volete potete anche telefonarci a allo 02 345 2656. Benissimo, grazie, e allora fra pochi minuti dopo questo piccolo brano musicale. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I Colori dell'Anima. Ed eccoci qua con I Colori dell'Anima, appunto, mentre sono le 21.42, quindi ci avviciniamo alla fine della trasmissione di oggi, 6 gennaio, che abbiamo dedicato alla, abbiamo voluto dedicare ovviamente alla ricorrenza di oggi che è l'Epifania e la Befana, ma abbiamo un ospite in studio che non vuole parlare e ci ha fatto sapere che domani è il Natale ortodosso, quindi c'è anche quest'altra ricorrenza che ovviamente è diversa dall'Epifania e dalla Befana, ma era così una, diciamo, una informazione in più. Allora, abbiamo visto varie tradizioni italiane, ma naturalmente questo 6 di gennaio è importante in molti paesi europei. E insomma, chi non conosce per esempio la galette du roi, chi non l'ha mangiata? Io l'ho mangiata. Anch'io l'ho mangiata oggi. C'è sempre qualche collega al lavoro che porta una galette du roi, addirittura oggi ce n'erano tre, quindi insomma noi ne avevamo quattro. Ah, di più. Avete preso, nessuno ha pescato la fava? No, addirittura tre non le abbiamo neanche aperte, perché oltre alla galette du roi c'erano talmente tante altre cose che non abbiamo avuto tempo di mangiarle proprio. Vabbè, quindi si mangeranno nei prossimi giorni. Esatto. Sono buone comunque, sono buone. Comunque insomma la galette du roi è sicuramente francese, ma vedo che anche qui in Belgio è molto abbastanza tradizionale, tipica, insomma si trova da tutte le... Sì, è una tradizione che si trasmette anche qui e c'è appunto questo dolce dove viene nascosta una fava oppure un oggettino di porcellana. Un santo. Sì, esatto. Pittolo Santo, come lo chiamano loro. Esatto, e quindi viene nascosto questo, questo simbolo dentro la galetta e poi dopo si raccolgono le persone, in genere in famiglia, e la persona più giovane, la cosa buffa è la persona più giovane va fatta mettere sotto al tavolo. Va fatta mettere sotto al tavolo perché una volta fatte le parti, c'è cioè qualcuno che si occupa di fare le parti di questa galette, di questo dolce, sì, sì. E la persona che è sotto al tavolo deve decidere a chi va il pezzo. Ah. Cioè il primo pezzo a chi lo diamo. Ho capito, quindi un'estrazione tavolo, quindi, come la mano del bambino che fa l'estrazione. Innocente, quindi ecco perché si prende il più giovane o la più giovane che sia. E la persona a cui tocca il pezzo dove all'interno c'è la fava oppure questo oggettino di porcellana, questo simbolo, diventa re o regina per un giorno e si deve mettere la coroncina. Certo. Ecco perché viene venduta la galette du roi con la coroncina intorno. Certo, infatti. Ma comunque questa usanza prese piede in Francia già nel X secolo, quindi è un'usanza molto vecchia, mentre in Olanda e in Belgio un po' più tardi, sembra nel 1281. E si festeggiava comunque questa festa dei tre re anche alla corte inglese, quindi una variazione, nel 1316. E quindi è tradizione in effetti preparare un dolce speciale, e il dolce dei Re Magi, che poi appunto ha subito numerose variazioni negli anni. Per esempio in Svizzera il dolce dei Re Magi è preparato con un pezzo di pasta lievitata di forma rotonda, intorno al quale si dispongono 5-6 pezzi di pasta dalla forma sferica più piccole della stessa pasta, e in ognuna delle quali si introduce una figurina di porcellana o di altro materiale che dà diritto a chi la trova al titolo di re. Quindi diciamo c'è sempre un po' lo stesso concetto. E naturalmente questa è una delle tradizioni, ma per esempio, che ne so, in Romania si celebra anche qui ovviamente la venuta dei Re Magi, in alcuni paesi questi bambini vanno di porta in porta bussando su ciascuna e chiedendo di entrare per raccontare delle storie. Di solito come compenso ricevono qualche soldino, ma tu Fiorella ci volevi dire anche la tua esperienza in Austria, sì, per esempio? Io il primo anno non avevo capito bene, perché andavano in giro questi bambini vestiti da Re Magi, e poi ho capito che bisogna lasciare sempre un cestino pieno di caramelle per tutta la settimana, perché non è che passavano, iniziavano il 6 gennaio, bussavano alla porta e gli si dava i dolcini, e loro in cambio sullo stipite della porta con un gessetto mettevano loro iniziali, dunque Gaspare, Melchiorre e l'altro che non mi ricordo mai, Baldassarre. E Baldassarre, più la data del giorno, dunque 6 gennaio dell'anno, in lettere romane. Dunque era una tradizione, anche una sorta di benedizione. E questa è una tradizione austro-ungarica e arriva fino verso Trieste, dunque tutte le zone, tutta quella zona toccata un pochettino dall'impero austro-ungarico. Mentre in Russia il padre Gelo, no? Insieme con la vecchietta Babushka, che va in giro a dare i doni ai bambini. Dunque, sì, era molto, diciamo che in Austria era meno eclatante della nostra Befana, forse era un po' più religiosa, questi bambini erano più, come dire, si medesimavano più nella parte delle magie. Ecco, forse io l'ho vissuta, forse da me che venivo da una Roma un po' pagana, forse, sono feste, sì, in questo mischio. È strano come a Roma si fondano queste cose pagane insieme a... Ma sì, sai, non bisogna dimenticare che Roma è effettivamente quello che è stato. E comunque c'è il Papa, insomma, l'abbiamo a Roma. Ma io penso che anche lui abbia avuto la sua bella calza, non lo so. Ne sono certa. Dunque, non ci sono problemi. Però per me è stato forse un vedere certe festività in maniera più spirituale, no? più alla portata dei bambini, perché per un bambino si accontentava di qualche dolcino andando a bussare nelle porte. Forse è un po' più semplice. Sì, più semplice. Più corale. Più corale. Esattamente. E poi ci sono anche altri paesi europei, per esempio, non so, in Islanda, il 6 di gennaio, il cosiddetto tredicesimo, ovvero 13 giorni dopo Natale. Nella terra degli elfi, perché l'Islanda è la terra degli elfi, la giornata inizia con una fiaccolata, alla quale partecipano anche il re e la regina degli elfi stessi, e durante il cammino poi li raggiunge il tredicesimo e ultimo dei Babbo Natale, e i Jólasveinar, a partire dall'11 dicembre giunge in città il primo Babbo Natale, uno ogni giorno, quindi fino all'arrivo del Natale, e poi dal 25 dicembre iniziano ad andarsene sempre uno alla volta fino alla fine delle festività, che coincide appunto con il 6 gennaio, e la fiaccolata termina con un falò e suggestivi fuochi d'artificio. E mi sembra di ricordare che sia più o meno la stessa tradizione anche in Svezia. Uh-huh. Ricordo che qualcuno mi avesse raccontato una cosa del genere. Beh, insomma, siamo nei paesi più o meno simili, no? come clima. Sì, esatto. Però vedi, ecco, in Spagna per esempio i bambini sono anche molto, diciamo, tengono molto alla salute della Befana, perché la notte prima loro lasciano un po' d'acqua e una scarpa. Vogliono mangiare una scarpa. Sì, così la Befana, se è stanca, ha le scarpe rotte, poverina, non solamente la sottana, può cambiare la sua scarpa, prendere quella nuova e lasciare quella vecchia. Lasciare la vecchia. Bambini sensibili. Allora, poi io almeno tornando diciamo un po' all'Italia, per me il 6 di gennaio, come dicevo prima fuori microfono anche a Fiorella e Anna Maria, sono i presepi viventi che si fanno naturalmente durante tutte le festività natalizie, ma il 6 di gennaio è proprio tipico. Per esempio a Rivisondoli il 6 di gennaio c'è il presepe vivente, a Rivisondoli quindi vicino Roccaraso in provincia dell'Aquila, è uno dei più famosi che ci sono in Abruzzo, e appunto c'era sui giornali anche questa notizia che persino il Papa è andato oggi a vedere un presepe vivente in una chiesa di Roma in forma privata. Non so come un Papa possa andare in forma privata, ma insomma in incognito. Comunque l'ho trovato così un bel gesto, che una persona così importante poi trova anche il tempo di andare a vedere delle piccole cose che succedono nel nostro quotidiano. Ma insomma, Befana o Epifania effettivamente è una bella festa, è un peccato che non sia festa anche qui in Belgio, però certo in Belgio abbiamo altre feste tipo l'Ascensione e la Pentecoste, quindi non ci possiamo neanche lamentare troppo. No, però bisogna anche dire che la Befana tutte le feste le porta via, dunque normalmente a Roma, almeno in Italia, non so voi, ma a Roma stanno mettendo tutto quanto, gli presepi, gli alberi di Natale vengono tolti il giorno, il 6. Bisogna disfare tutto. Ecco, invece questo volevo dire, una tradizione invece in Austria sempre. In Austria si fa l'albero di Natale il 24 sera. Sì, anche in Germania, E si toglie la prima domenica di febbraio. Ah, ecco, dunque, vedi, quindi resta molto più tempo. Per me va benissimo, perché il 12, segnatelo, è il mio compleanno. Io ho sempre sognato di avere l'albero di Natale per il mio compleanno. Mia mamma dice no. Tradizione, sai, si toglieva tutto. Adesso invece... Ah, tu quindi avresti voluto festeggiare il tuo compleanno con l'albero di Natale? Sì, è bello, è simpatico, perché no? Infatti, no, io lo tengo, cioè, non lo tengo più come una volta, ero quasi blasfema a toglierlo il 12 gennaio in Austria, tutti quanti si teneva fino al primo febbraio, in più si prendeva l'abete vero e si metteva un pezzettino di ramo di abete dietro tutto i quadri, perché sì, diceva portava fortuna. Dico a pulire poi, perché c'avevi tutti stacchi di là per tutto 12 mesi. Però io lo toglievo a metà gennaio, a me piaceva, sì. Infatti sarò forse l'unico albero di Natale che rimane qui a Bruxelles, a parte i miei amici bennesi, fino almeno a metà di gennaio. Bene, quindi al tuo compleanno ci sarà. Come tu volevi da piccola, hai realizzato il tuo desiderio. Ok. E poi un'altra cosa, la Befana, tutti quanti iniziamo le diete. Il giorno dopo la Befana, perché abbiamo mangiato troppo e tutto quanto. Questo. E allora ci vuoi consigliare qualche dieta? No, io non ho nessuna intenzione di farla, guarda. Tu già stai pensando alle crepe della Candelora. Brava, quindi. Io sto... Dunque è inutile che mi metto a dieta, che poi perdo il ritmo, non lo ritrovo. Assolutamente, lo stomaco va... Candelora, va poi esatto. La Pasqua, no. Va tenuto allenato, come le mandibole, la stessa cosa, si devono allenare. Va bene, allora io direi che ci possiamo quasi congedare. Io vorrei ringraziare Fiorella, perché appunto tutte le volte che ti chiediamo così di venire in nostro soccorso sei sempre disponibile. Ma a me poi, insomma, un piacere folle, veramente. È un piacere averti in radio, perché sei così piena di iniziative, di cose che fai, di attività, di curiosità, e insomma, e ti piace che chiacchierare con noi, quindi è un piacere averti, grazie di essere venuta. Grazie a voi di avermi invitato, è veramente simpatico. Ci vedremo, ci sentiremo per radio ad una prossima trasmissione. Grazie. Grazie a te Anna Maria. Grazie Rosanna, grazie Fiorella, anche per me è sempre un grandissimo piacere venire qua, quindi... E poi mangiamo, beviamo, ci raccontiamo un sacco di cose. Certo, e grazie naturalmente a tutti i radioascoltatori che ci hanno ascoltato dalla radio oppure da internet, o che ci ascolteranno sul nostro blog della radio, che è appunto radioalma.eu/icolori dell'anima, dove troverete quindi le trasmissioni, che quindi potrete risentire anche successivamente in seconda battuta. Ancora buon anno, e naturalmente rimanete sintonizzati, ma ricordate appunto che I Colori dell'Anima va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Buonasera da Rosanna, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.